Sound check, il suono della musica di Gegè Telesforo. Buonasera a tutti voi, questo è il soundcheck, prova del suono di Radio 24. Buonasera a Silvia Barba che torna carica di energia nel nostro studio. Buonasera a te, ciao a tutti. Senti, una cosa ti volevo chiedere, che dicono della tua presenza in questa rubrichetta di musica qui su Radio 24? Momento Hai avuto bilanci. Un feedback importante o no? L'ho avuto, molti amici. Prima di tutto voglio sapere la famiglia. La famiglia contentissimi, siamo sintonizzati tutti sabato alle 19:15 lì davanti e mi mandano i messaggi, hai visto poi mentre siamo in diretta. Ho visto, cosa che non dovresti fare perché dovresti essere concentrata sulle nostre note, però capisco che la famiglia. Comunicazione è importante. E poi amici appassionati di musica, colleghi musicisti, che pensano? Molto contenti alcuni, altri giustamente fanno delle critiche. Tipo il nostro Francesco Tromba. Ah, il Tromba, che critica ha espresso il Tromba? Te lo devo dire, ma non lo so, guarda, lui dice che sono molto seria, troppo seria. Io invece pensavo di, insomma, essere abbastanza... Sì, naturale, quindi, naturale, no? È il mio mondo qua. Lo dice lui che è passato a lavorare nel programma più serio di Radio 24, sono tutti importanti e seri, però insomma è andato a lavorare con Minoli. Ho capito come la pensa il Tromba. La verità è che lui è un po' invidioso, secondo me. No, gli manchi. In realtà gli manchi molto. Anche lui ci manca. E quindi salutiamo il nostro Francesco Tromba. Bene, ma veniamo alla musica, perché abbiamo due ore con un grande repertorio da presentare e da affrontare qui su Radio 24. La prima parte del nostro soundcheck, quindi prima dell'informazione delle eventi qui su Radio 24, vorrei dedicare questa prima parte a tre soul sister meravigliose e probabilmente fra le mie preferite degli ultimi anni. Tre donnone, Sì, tre belle donne che quando le vedi, io personalmente non ho mai avuto il piacere di abbracciarle, ne ho abbracciate altre, ma se incontro per esempio Jill Scott per la strada mi metto in ginocchio e la abbraccio forte. Beh, anch'io, mi piace lei, mi piace sì, molto. Sì, mi piace, proprio è una delle mie preferite. E, intanto perché non è così attenta agli stereotipi tipici del successo discografico. Ogni progetto ha una sua identità, un suo suono, ed è quello poi che devono fare tutti i grandi musicisti e quindi i vocalist e i producer, cercare il proprio suono personale, quello con il quale diventi riconoscibile. Lei è molto indipendente in questo. È indipendente anche come artista, insomma, perché già il primo contratto discografico, e credo che continui a lavorare per la Hidden Beach Records di Philadelphia, dopo essere stata scoperta tra l'altro dal meraviglioso Questlove, esatto. Amir Thompson, batterista, producer dei Roots, oggi uno dei producer più richiesti, se consideri che ha prodotto anche il disco di D'Angelo, gli ultimi dischi di D'Angelo, insomma si capisce di chi stiamo parlando. E quindi Amir Thompson lanciò Jill Scott nel panorama musicale Totally Black. Jill Scott, che ha iniziato come poetessa, perché scriveva poesie, vero? Spronata dalla sua insegnante. Era, come dire, quindi già iniziava il suo percorso di autrice attraverso... Esatto, e poi è venuta fuori con un primo disco che ha sorpreso tutti, ha vinto dei Grammy Award e adesso ultimamente è tornata con Woman, disco bellissimo, perché ci sono varie sonorità, c'è l'elettronica ma anche il vintage con suoni che ci riportano indietro addirittura alla soul music degli anni 60. Il brano che ho scelto per aprire questa puntata del nostro soundcheck, questa prima parte, e forse è quello che a me piace di più. Si intitola Prepared. Jill Scott al soundcheck di Radio 24. Prima parte del soundcheck di oggi, dedicata a tre soul sisters eccezionali. La prima, Jill Scott, meravigliosa, con il nuovo album intitolato Woman. E poi Jill Scott, proprio per questo motivo, è molto richiesta ormai da diversi anni. È una delle recenti, importanti collaborazioni che ha realizzato questa formidabile artista from Philadelphia, e proprio con il nostro amico Robert Glasper. Sì, e quando Robert Glasper annunciò con il primo singolo la partecipazione di Jill Scott per questa composizione intitolata Calls, tra l'altro molto interessante perché la struttura è storta, così come diciamo noi musicisti, io feci proprio un salto sulla poltrona e infatti, non deluse le aspettative, il brano è molto intrigante. A te piace molto G. Scott, devo dire, ti vedo molto interessato. Mi eccito proprio, quando parlo delle donne che mi piacciono e poi quando fanno le musiciste mi eccito proprio nel vero senso della parola. Eppure Robert Glasper, devo dire, ha avuto il suo anche fare Robert Glasper mi eccita, ma da un altro punto di vista, musicalmente, insieme sono dirompenti per me. Allora, ascoltiamo Calls, Robert Glasper Experiment da Black Radio 2 con la favolosa Jill Scott. Soundcheck. Il suono della musica. Realizzato negli studi londinesi, questo London Session con Mary J. Blige in evidenza, il brano era All Them Year, bellissimo, con la partecipazione anche di Emily Sandé, che ha partecipato alla scrittura di questa composizione. Eccola qui la seconda soul sister protagonista di questa prima parte del soundcheck, la formidabile Mary J. Blige. Anche lei una storia importante, anzi un'infanzia complicata per questa signora della black music, sempre a caccia del successo con le sue produzioni discografiche. Ecco, al contrario di Jill Scott, Mary J. Blige è molto attenta alle posizioni in classifica e questo in qualche modo, secondo me, limita il suo raggio di azione sulla creatività. Anche da un punto di vista di collaborazioni, lei collabora molto con gli artisti di successo e anche europei. Ricordiamo Bono degli U2 con quella versione bellissima di One, o ultimo Sam Smith. Hanno rifatto insieme Stay With Me. Quindi è molto attenta la signorina. Sì. Pensa che io l'ho vista dal vivo 2-3 anni fa a Los Angeles. Ecco ero lì per fare le mie masterclass alla Venice Voice Academy praticamente sei andata a vederla. Sono andata a vedere Mary J. Blige, ma soprattutto chi apriva il concerto di Mary J. Blige. E chi apriva? Che è il tuo amato D'Angelo. Oddio. Che tra l'altro prima della pubblicazione, quindi 3 anni fa, prima della pubblicazione di Black Messiah, già proponeva con tutta la band il repertorio presente poi in questo favoloso album. Chissà se porterà a casa il Grammy Award quest'anno, staremo a vedere. Sta facendo incetta di premi già, eh? È D'Angelo, beh, mi sembra giusto. È giusto, grande produzione. Ma non è di D'Angelo che noi dobbiamo parlare, è di Mary J. Blige, una ragazzina che, dicevamo, ha avuto un'infanzia difficile in una famiglia, insomma, complicata, poi fortunatamente ha trovato nella sua musica la valvola di sfogo, ha iniziato proprio come vocalist e oggi è una star di prima grandezza, ha un seguito impressionante. Infatti la cosa forte e buffa fu per me verificare questo. D'Angelo, sì, ecco, insomma, c'era gente a seguire il suo concerto, però poi quando salì sul palco Mary J. Blige non puoi immaginare quante ne disse sugli uomini. Davvero? È arrabbiata? Arrabbiata, ma proprio il termine esatto è incazzata nera con gli uomini, Mary J. Blige. Povera. Però, secondo me, ama un signore. Chi non ama Quincy Jones, figurati. E Quincy Jones l'ha voluta come vocalist per interpretare nuovamente, scusami, mi sono allontanato dal microfono, per interpretare nuovamente questo vecchio successo di Stevie Wonder, realizzato da Quincy Jones in una delle sue ultime produzioni, con la partecipazione anche del rapper Q-Tip e di Alfredo Rodriguez, giovane pianista. Il brano famosissimo è Betcha Wouldn't Hurt Me, Mary J. Blige e Quincy Jones al soundcheck. Soundcheck. Il suono della musica. Mesmeride di Faith Evans, e qui viene fuori tutta la passione per il groove, il funk, l'afrore tipico di questa donna che ha una vita meravigliosa e difficile al tempo stesso, una vita che potrebbe essere tranquillamente narrata, che so, da un regista come Spike Lee. Sì, perché lei ha vissuto proprio il periodo quello tosto delle guerre fra gang tipiche del periodo gangsta e hip hop. Eravamo alla fine degli anni 90 e infatti nel 1997 lei era sposata con il rapper Notorious B.I.G. che viene Che viene ammazzato, sì, proprio c'erano le faide fra gangsta e Notorious B.I.G. viene ammazzato. Fatto sta che Faith Evans, insomma, da donna tosta con figli a casa, carico, non si perde d'animo e trova in quello che una volta era Puff Daddy, oggi è P. Diddy, trova un mentore e un producer importante, così inizia a produrre la sua discografia. E Fit Evans è tornata anche discograficamente con un nuovo album che noi vi vogliamo far ascoltare, anzi vi vogliamo presentare comunque il singolo che vede la partecipazione del rapper Problem. Il brano si intitola Good Time, Fit Evans, al soundcheck di Radio 24 dall'album Incomparable. E infatti con chi è paragonabile? A chi nessuno. È paragonabile Fit Evans? A nessuno. E poi facciamo una pausa, perché pausa importante, perché arriva l'informazione di Radio 24 e torniamo invece con una seconda parte molto jazz contemporary ma interessante. A dopo. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Seconda parte del soundcheck qui dal Groove Master Studio di Radio 24, puntuali dopo l'informazione, pronti per una seconda parte senz'altro più jazz contemporary. Ovvero, sì, adesso diventa difficile, mia cara Silvia, parlare di jazz. Che cos'è il jazz? Si potrebbero aprire dei dibattiti infiniti e molto spesso li facciamo, soprattutto quando si viaggia per andare a fare concerti insieme agli amici, no? Che cos'è il jazz oggi? Ma il jazz è, qual è il jazz che ti piace di più? Ecco, qual è il jazz che ti piace di più? Ci sono molte forme e soprattutto molti protagonisti oggi. Molti protagonisti e anche... Guarda, non so se questa discussione poi è fruttuosa in fin dei conti, no? Noi ne possiamo parlare, viaggiamo appunto e ci chiediamo spesso quando dobbiamo definire un disco, che genere è? Allora no, ci mettiamo nella condizione di parlarne, ma non so se è fruttuoso, perché questo alla fine, secondo me, poi è un discorso. Si parla di musica contemporanea. Oggi il jazz contemporaneo è evidentemente diverso da quello degli anni 50. Catalogare la musica oggi oggi è quasi impossibile, però un tempo serviva proprio alle case discografiche che poi dovevano mettere i dischi, gli album, i vinili e poi i CD nei negozi e quindi andavano catalogati più che altro per dare la possibilità agli appassionati di musica di trovare negli scaffali giusti la musica di riferimento. Oggi su iTunes, cioè, oggi no? Su la iTunes, targhetta, esatto, vicino. Esatto, se vuoi andare a vedere le classifiche ci sono segnati ancora i generi. Certamente il jazz da sempre è stato aperto alle contaminazioni, ai suoni, alla world music. Pensiamo soltanto a Dizzy Gillespie, che già alla fine degli anni 40 aveva aperto il jazz alle contaminazioni con i ritmi latini. Ma insomma, un'evoluzione incredibile, ancora oggi continua a sorprenderci. Poi l'ultima ondata generazionale per quel che riguarda la black music è il matrimonio fra il jazz e le nuove tendenze ritmiche, partono dall'hip hop a tutto il resto. Mi piace pensare che il jazz sia ancora quel genere di musica dove si possono esplorare delle nuove cose, sì, e dove si può e puoi essere te stesso in libertà. No? Ci piace questa idea. Ti piace questa idea. Allora, questo per aprire questa seconda parte e direi di presentare proprio uno dei giovanissimi protagonisti della scena newyorkese, anche se lui è californiano di origine, credo sia nato a Los Angeles. È nato a Los Angeles nel 1989. Quindi giovanissimo. Giovanissimo, siamo vecchi. Per bacco, quando io intervistavo Miles Davis a Doc, lui non era ancora nato. Senti, dobbiamo parlarne di questa cosa di Doc, io sono curiosissima delle tue cose. Segnato profondamente. Ci credo. Allora, stiamo parlando, però non l'abbiamo detto, di Chris Bowers. Come potremmo definire Chris Bowers? Vabbè, nato nell'89, formidabile pianista di jazz, suona anche musica classica, onnivoro, appassionato di elettronica. Potrei definirlo, ecco, per dare dei riferimenti, un giovane Robert Glasper. Un piccolo Robert Glasper. Ma è già richiesto, sei amico di Christian Scott, di questa nuova ondata di musicisti. Allora, ascoltiamo Chris Bowers dall'ultima pubblicazione intitolata Heroes and Misfits, ovvero Eroi e Misfatti, sembra quasi il titolo di un film, e il brano si intitola Wonder Love con la partecipazione del vocalist Chris Turner. Eccolo qui, Chris Bowers al soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. The Ronettes Foundation al soundcheck di Radio 24, la partecipazione di John Robinson come rapper, il brano Tutto un programma, che conferma quello che noi stavamo raccontando con Silvia Barba, ovvero A Composer of Modern Day, il compositore di oggi, ecco, del futuro, ovvero uno che non si ferma. Chi è? È uno che ha ascoltato jazz, che ha studiato musica classica e che è proiettato nel futuro. E questo ci viene raccontato da John Robinson con il suo rap, da questo album che ha come protagonista questa band chiamata Ronettes Foundation. Da dove viene questa band? Non lo so, dove li hai scovati? Ma come? Ma il sound è tipico della tua città preferita, scusami. New York. E da New York, solo da New York possono arrivare questi signori, che tra l'altro hanno un leader che non è americano e non è neanche nero. Anzi, non è nero e non è americano, perché il leader di questa band si chiama Stéphane Rongier, è un trombettista francese, ecco, che ha fatto i suoi studi di musica lì a Parigi per poi trasferirsi, come fanno spesso tutti, a New York. Ha messo su questo organico e nel nuovo album ci sono altri due artisti molto interessanti, la vocalist Lily Cooper e il bravissimo Gary Bartz, che è un veterano del jazz col suo contralto, che ha suonato hard bop, ha fatto parte anche di Art Blakey e Jazz Messengers, ma richiestissimo anche dai ragazzi della nuova generazione. Eccolo qui, Such a Morning Person, sentite quanto è intrigante questa composizione, quanto è forte Lily Cooper, e poi Ronettes Foundation dicono la loro. Can you hear me? Soundcheck, il suono della musica. Sì, e ciclicamente devo tornare ad ascoltare Brad Mehldau, mi vengono i brividi, l'approccio sul pianoforte di questo artista considerato fra i migliori musicisti in assoluto, non dico musicisti di jazz, musicisti in assoluto dell'ultima generazione, e gli appassionati dei Beatles avranno riconosciuto quindi la versione strumentale di un classico del repertorio di Lennon e McCartney intitolata Dear Prudence, tratta da un album, forse uno fra i più belli di Brad Mehldau, intitolato Lara. E dal sound, dal tocco particolare di Brad Mehldau, passiamo invece al pianista romano italiano, uno dei miei preferiti e anche mio carissimo amico, Danilo Rea. A proposito di brividi, anche Danilo Rea, quando suona, fa emergere proprio quella parte più emozionale, emotiva di noi, no? Che ascoltandolo ci emozioniamo insieme a lui. È un grandissimo musicista. Grandissimo musicista, versatile, poi anche lui ama la musica in senso lato. Tutta. E infatti nell'ultimo album intitolato Something in Our Way, Danilo Rea interpreta attraverso il suono del suo pianoforte il repertorio dei Rolling Stones e dei Beatles. Eccolo qui il ponte con Brad Mehldau. Brad Mehldau ci ha fatto ascoltare Dear Prudence, Danilo Rea invece ci propone Let It Be qui al Soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. E anche lui è uno dei miei preferiti, Joshua Redman, col suo sax tenore, figlio d'arte, figlio di Dewey Redman, qui in Stop This Train, che poi è un brano fra i più importanti del repertorio del giovane bluesman e rocker al tempo stesso John Mayer. E siamo ai saluti, mia cara Silvia Barba, è passato un altro soundcheck, abbiamo ancora un po' di tempo perché un altro sassofonista che vorrei farti ascoltare. Chi è? Dimmi un po'. Si tratta del sassofonista con origini israeliane Eli DeGibri, anche lui residente a New York, bellissimo il suo progetto, l'album nuovo si intitola Cliff Hanging e l'ho presentato in un soundcheck della domenica, quindi il soundcheck più vicino al jazz, ma dal suono accattivante questa composizione credo sia adatto anche a chiudere questo appuntamento. Però ci vediamo domani con te. Beh, ci vediamo domani, io sarò qui sicuramente per il soundcheck alle 19:15 perché domani ho Daniela Spalletta che viene a presentarci, wow, il disco, bravissima vocalist italiana, quindi da non perdere anche la puntata di domani qui su Radio 24. Eli DeGibri, What I'm Doing Here, che sto facendo qui? Faccelo capire, Eli. A tutti voi buona serata e buona musica da Gigi Telesforo e Silvia Barba, ciao.